tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate. E buon pomeriggio, a chi ci ascolta e perché no, buon pomeriggio anche a chi non ci ascolta. Siamo in diretta da Radio Wombat per il Ponte Radio del venerdì. Da qualche mese ormai a questa parte andiamo in diretta a staffetta con le nostre radio sorelle dalle 13 alle 14.30 ogni venerdì. Ci alterniamo, questo è il nostro turno e quindi la diretta da Firenze la teniamo noi su Radio Wombat. Ci potete ascoltare sulle 13.59 AM oppure sul sito radiowombat.net, ovviamente anche su Onda Rossa, Radio Quar, Radio Eustachio. Oggi che abbiamo noi la diretta, proseguiamo in realtà il discorso iniziato da Radio Eustachio sul tema della guerra. È un tema purtroppo attualissimo e quindi andiamo ancora un po' avanti, un po' ancora a fondo su questo argomento. In particolare lo leghiamo al tema, alla questione universitaria e alla questione studentesca in generale, perché lo affrontiamo anche dal punto di vista delle scuole quest'oggi. Infatti, cosa faremo? Dunque, stiamo per rimandare una presentazione che si è svolta la settimana scorsa a Firenze al centro sociale Next Emerson. C'erano con noi Carlo, l'abbiamo registrato appunto e quindi infatti oggi ve lo rimandiamo, c'erano con noi Antonio Mazzeo e il collettivo d'Ateneo di Firenze. Allora, il collettivo d'Ateneo di Firenze, per chi ci ascolta a Firenze insomma non servono presentazioni, ma per chi ci ascolta da fuori è un collettivo universitario, un'assemblea auto-organizzata composta da studenti e studentesse di varie facoltà, ha una sede al Polo di Novoli, precedentemente aveva anche lo studentato autogestito Ponte di Mezzo, che è stato tuttavia sgomberato un paio d'anni fa. Ogni anno pubblicano una controguida all'università, però non li abbiamo invitati in questa occasione per questo, bensì per presentare un opuscolo, un fascicolo molto interessante che hanno, anzi molto più che interessante, che hanno pubblicato da pochissimo, da pochissimi giorni, è la questione palestinese dentro e fuori l'università. È molto ricco, lungo, ce l'ho adesso sotto mano, sono una quarantina di pagine, affronta prima la questione palestinese dal punto di vista storico, la storia del popolo palestinese fino ad arrivare agli ultimissimi giorni, e poi c'è un capitolo dedicato alla resistenza palestinese, a quali sono le forze della resistenza, al ruolo del fronte popolare per la liberazione della Palestina, nonché al ruolo delle donne nella resistenza. C'è una parte sul contesto internazionale, un approfondimento sul sionismo, ma perché dicevo prima è legata alla questione universitaria e alla guerra, perché l'ultimo capitolo di questa pubblicazione si intitola Il complesso accademico militare industriale e affronta la questione bellica in modo mirato, ovvero va a vedere quali sono i rapporti che ci sono fra le università fra le università israeliane e l'apparato militare, industriale e finanziario israeliano, che dice questa pubblicazione è tanto forte da non poter parlare addirittura dell'uno senza tener conto del secondo, come la stessa situazione è messa in Italia, cioè il rapporto appunto fra il mondo accademico e quello militare industriale, e anche quale rapporto lega l'Università di Firenze, in particolare con le università israeliane. E assieme a loro e a questa pubblicazione andavamo a presentare La scuola va alla guerra di Antonio Mazzeo, un'inchiesta sulla militarizzazione dell'istruzione in Italia, un libro appena uscito, anche questo pochissime settimane fa, per il Manifesto Libri. Antonio Mazzeo è un insegnante, è un saggista, è impegnato da molti anni nel tema della pace, del disarmo, dell'ambiente, scrive, collabora col Manifesto e altre testate giornalistiche, prima di affrontare la questione della guerra nella scuola, cioè in ciò che viene prima dell'università, ha pubblicato anche volumi e articoli che affrontano invece il tema della, del rapporto fra l'apparato appunto militare, industriale, finanziario e l'università in Italia. Vi rimandiamo quindi questa presentazione che si svolge così. Abbiamo prima preso la questione dal punto di vista generico e generale, l'abbiamo introdotta per poi andare a vedere direttamente qual è la questione svolta nel caso dell'Università di Firenze, però è un caso studio, però emblematico di come potrebbero essere altre università, anzi di come sono altre università in giro per la penisola e non solo, e poi anche di come la questione si svolge nel mondo della scuola, cioè con Antonio Mazzeo abbiamo visto ciò che avviene prima dell'università e anche che ruolo speciale ha l'alternanza scuola-lavoro, che ora si chiama PCTO. Abbiamo visto tutto questo in questa presentazione che stiamo per rimandarvi, non prima però di dire che è un po' un filone che stiamo in realtà seguendo, sia come Radio Wombat e anche in città, in vari eventi. Poco tempo fa all'interno del Festival Claridad era stata presentata sempre con gli studenti del collettivo d'Ateneo il libro Università e Militarizzazione, il duplice uso della libertà di ricerca, con Michele Lancione, che è pubblicato per Eris anche quest'anno, è un libro breve ma molto denso di argomenti, questioni, e ora non sto a introdurlo. Michele comunque è un docente di economia, di geografia politico-economica al Politecnico di Torino, parla dei casi del Politecnico di Torino. Questo libro lo consigliamo molto, giusto per dare insomma qualche indicazione di massima all'inizio, e allora, visto che le sto dando, ci aggiungo anche l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e l'università, che ha pubblicato un importante vademecum vuole fornire questo vademecum degli strumenti che siano a disposizione per studenti, docenti, ricercatori, per contrastare, insegnanti e genitori anche, per contrastare la crescente presenza militare nelle scuole e allo stesso tempo per proporre un'idea un po' diversa di scuola, di società in generale. Ci sono vari appendici delle FAQ, degli strumenti utili, dei moduli che possono essere riempiti. Antonio Mazzeo è fra l'altro fra i promotori dell'osservatorio, quindi rimandiamo anche a questo. E con tutte queste indicazioni io direi che forse è l'ora di mettere in diretta insomma la presentazione che sarà svolta la settimana scorsa. La rimandiamo, buon ascolto e un saluto. La prima domanda, allora andiamo subito veloci, è per Antonio. Questo è il libro che presentiamo, La scuola va alla guerra, ma prima di questa pubblicazione, nei tuoi recenti lavori, ti sei occupato anche dell'università, del rapporto di essa con articoli, libri, del rapporto dell'università col mondo militare e industriale. Ti chiederei pertanto, come prima domanda, di introdurci alla questione, a quali sono i termini generali del problema che andiamo ad affrontare oggi. Vabbè, ovviamente ringrazio le compagne e i compagni e sono contento di tornare dopo 14 anni, una vita. Beh, allora, partirei proprio un attimo dalla riflessione, cioè non possiamo assolutamente dimenticare la fase storica in cui ci troviamo, cioè l'economia di guerra, una guerra ormai globale, una guerra costante, una militarizzazione ormai di qualsiasi forma di vita della società, dell'economia, delle relazioni, della comunicazione, dell'informazione. Ovviamente l'università e la scuola, proprio per il ruolo strutturale, istituzionale, storico, di socializzazione, ovviamente non potevano non restare fuori da questa offensiva bellica e soprattutto dai processi necessari di penetrazione ideologica e anche fisica da parte delle forze armate e delle aziende militari. Anche perché sia università e scuola sono elementi fondanti della società, cioè non sono qualcosa a parte. Seconda questione, proprio perché nelle università e nelle scuole si formano le nuove generazioni e le nuove generazioni non possono che essere innanzitutto gli attori protagonisti, ovviamente vittime, di quella che è questo processo di guerra. Penso che la guerra in russo-ucraina, che era stata presentata come la guerra del XXI secolo, con le nuove tecnologie, droni, automatizzazioni, eccetera, che è anche questo, però ha riportato almeno la lancetta di un secolo indietro. È una guerra di trincea, è una guerra di corpi, dove corpi poi perdono la vita. E ovviamente sono corpi giovani. Pertanto la guerra russo-ucraina dimostra che c'è bisogno di nuove generazioni, c'è bisogno di giovani che siano abituati attraverso la digitalizzazione a operare sui sistemi di guerra moderni, ipertecnologizzati, che richiedono risposte immediate e richiedono soprattutto la necessità di non riflettere, di non pensare, perché deve essere immediata la risposta d'attacco, eccetera. Dall'altra parte poi hanno bisogno di corpi, esattamente come c'era bisogno nelle guerre 100 anni fa. Allora, in questa prospettiva, la scuola, dove il luogo di formazione culturale, sociale, personale e ideologica delle nuove generazioni, ovviamente è il terreno di conquista come le università. Ovviamente con due aspetti che si sommano, ma che poi vedono a loro volta anche delle differenze. L'università già da anni, da decenni, è un interlocutore fondamentale e strutturale delle forze armate del complesso militare industriale. Senza le ricerche scientifiche in ambito universitario non ci sarebbero stati progressi, dico tra virgolette, nella produzione di nuovi sistemi di distruzione e di morte. E tra l'altro, consentitemi, anche Israele è un modello vincente, è il modello in cui l'università diventa quasi il collante tra le forze armate, le aziende, le grandi industrie, le start-up e le ricerche e i servizi segreti, dove si opera congiuntamente e si costruiscono sempre nuovi sistemi sofisticati che poi ovviamente trovano come laboratorio sperimentale la pelle delle compagne e dei compagni palestinesi o di altri popoli del Medio Oriente. Nonché l'università anche come costruzione ideologica dello Stato di Israele, dello Stato di apartheid, dello Stato di repressione di questa guerra globale e anche di costruzione ideologica del nemico e della propria identità nazionale. La scuola ovviamente invece diventa fondamentale, per cui c'è questo rapporto nell'università che è storicamente, più che complesso militare industriale, possiamo parlare di complesso militare industriale finanziario accademico, che si è sviluppato soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale e che ha avuto enormi accelerazioni, dicevo di Israele, ma penso dopo la guerra in Vietnam, anche il cambiamento da parte delle forze armate che hanno bisogno delle università non soltanto perché è il luogo dove puoi sperimentare le armi nucleari, dove puoi sperimentare nuovi sistemi, ma perché attraverso le università, attraverso la sociologia, la psicologia, attraverso le scienze umanistiche, attraverso le scienze delle comunicazioni, diventa fondamentale per le guerre moderne, che sono guerre totali, in cui fai bombardamenti ma hai bisogno di altre forme di aggressione, del controllo delle menti, della ideologizzazione, di ottenere il consenso sul fronte interno e anche rompere il consenso sul fronte esterno quando fai le guerre. La scuola è diversa, perché la scuola, ovviamente, in questo senso anche nel libro cerco di dimostrare che non si tratta soltanto delle scuole superiori, che ancora questo purtroppo è un luogo comune. La penetrazione ideologica strutturale da parte del complesso militare industriale, le forze armate, servizi segreti e da parte delle industrie belliche ormai non ha risparmiato le scuole dell'infanzia, cioè parliamo di dalle bambine e bambini dai 3 anni in su. Proprio in questa prospettiva hai bisogno di educare, c'è scritto nei documenti, non è una valutazione mia, di educare alla difesa e alla sicurezza, diventano le prioritarie pedagogiche, le priorità pedagogiche, cioè tu hai bisogno di utilizzare la scuola per abituare le nuove generazioni a pensare che ci sono delle priorità nello Stato. La priorità non è garantire il rispetto pieno dei diritti umani e dei diritti sociali, avere diritto al welfare, avere diritto a una scuola di qualità, una scuola gratuita, ad avere un diritto di un'università che non sia respingente, che non sia di classe, di avere accesso alla sanità e non come sta accadendo al contrario. Devi educare che la priorità è in questo momento il sistema Italia, la difesa del sistema Italia, ossia di quei, diciamolo chiaramente, quei gruppi finanziari transnazionali, Leonardo, Fincantieri, Eni, la società di costruzioni WeBuild, quelli per cui noi andiamo a fare le missioni internazionali e giustifichiamo 1,5 miliardi di risorse finanziarie, il trasferimento di un'enorme quantità di militari all'estero, proprio per difendere questi interessi. E allora la scuola diventa un centro fondamentale di educazione all'obbedienza cieca, per cui se la patria ti chiama, anzi se il sistema Italia ti chiama, devi essere disponibile a metterti in gioco, a mettere il tuo corpo, a rinunciare anche al tuo diritto a sopravvivere, al diritto alle relazioni, ad a tornare con un corpo integrale, e dall'altra parte educarti anche a mettere delle priorità che non sono più le priorità che dovrebbero essere a fondamento di una società civile, democratica, non dico comunista, socialista, eccetera. Cioè avere diritto a una serie di accessi e risorse. In questo senso, e chiudo, non è un caso che, per esempio, nelle scuole, parallelamente alla militarizzazione, a questa ulteriore crescita dell'autoritarismo, alla riduzione sempre maggiore degli spazi di agibilità democratica, di riflessione collettiva, di socialità, è passato un processo reale di aziendalizzazione, di privatizzazione, con il modello che è un modello militare, aziendalista, neoliberista, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro, dei PCTO. Anche quella è una grande scuola, una grande officina educativa, perché devi educare ragazze e ragazzi che il lavoro non è un diritto, che il salario non è la conquista di lotte sociali col capitale, per cui a secondo dei rapporti di forza riesce a guadagnare agibilità, spazi, salari migliori, diritti migliori contrattuali, ma è una mera concessione che ti dà il privato. Il lavoro può essere schiavo, infatti ti si educa a sacrificare 200 ore e prossimamente 300 o 400 della tua formazione individuale, del tuo vivere in classe, pertanto anche della tua formazione di socializzazione, sacrificandola in un lavoro schiavo, non retribuito, e abituandoti all'idea che la precarietà è l'elemento, come potrei dire, fondante della vita di ogni giovane. Sei precario a vita, sei precario perché ti devi educare anche che la vita è precaria, per cui se vai a combattere la puoi perdere, perché comunque c'è un interesse fondamentale e devi essere disponibile a rinunciare alla vita. La precarietà a vita, che significa precario sul posto di lavoro, pertanto un lavoro che non esiste mai, stipendi che non esistono mai, la possibilità di essere, di non potersi costruire affettività, perché una società del genere liquida, eccetera, impedisce anche un radicamento nel territorio, un'identità territoriale, dunque anche la costruzione stabile di relazioni personali, umane, eccetera. Ecco, allora la scuola diventa fondamentale per strutturare la società moderna, una società bellica, una società di guerra costante e permanente, una società che nega qualsiasi diritto alla socialità e al rispetto dei diritti fondamentali. Grazie, grazie Antonio. Poi ci torniamo su questi aspetti, infatti entriamo adesso dentro, iniziamo dall'università e poi ci spostiamo sulle scuole superiori. Mi rivolgo adesso al collettivo d'Ateneo. Qualche mese fa, dicembre se non sbaglio, eravamo qui più o meno in questo assetto assieme a Michele Lancioni al posto di Mazzeo. Parlavate dei vostri studi sulla Fondazione Medor e i suoi rapporti con l'Università di Firenze. Adesso siete andati più avanti con questa ottima pubblicazione che c'è fuori qua nel banchino oppure qua davanti. Vi inviterei sostanzialmente a introdurla facendo magari particolare attenzione all'ultimo capitolo che avete scritto, che si intitola Il complesso accademico militare industriale, per l'appunto, e inizia ponendosi la domanda come è collegata la nostra università con ciò che succede in Palestina. Sono pagine queste che toccano il rapporto che c'è fra l'apparato militare, industriale, finanziario italiano e l'Università di Firenze, i rapporti che ci sono fra questa e le università israeliane e a chiudere il cerchio i rapporti fra le università israeliane e appunto l'apparato militare industriale finanziario di lì. Talmente stringente, talmente avanzato, infatti, come si diceva poco fa, che scrivete infatti nell'introduzione che addirittura questo rapporto è così stretto in Israele da non poter ragionare del primo senza tener conto del secondo. Sostanza, insomma, ecco, quindi vi chiederei di presentarci questo studio. Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio i compagni per lo spazio e per la possibilità di presentare questa pubblicazione. Io inizierò dicendo due parole più di carattere più generale, diciamo, sulla necessità del perché questo dossier. E di base, come studenti e studentesse, la nostra intenzione era dare degli strumenti ulteriori a tutti affinché potessero avere, diciamo, un quadro più completo di quello che avviene oggi in Palestina e di come quello che avviene oggi in Palestina sia legato anche a noi che siamo qui in Italia, in particolare a noi studenti universitari. Appunto, noi vediamo la questione palestinese come una questione che rimette al centro la contraddizione tra imperialismo e popoli oppressi. Come diceva prima anche Antonio Mazzeo, siamo in una fase in cui la crisi del capitalismo è arrivata a un punto in cui vede la guerra come un suo strumento per potersi ristrutturare e superare questa fase di crisi, che gli possa permettere tramite le aziende belliche di appunto generare nuovi profitti e anche con l'acquisizione dei mercati che una guerra porta a conquistare. Quindi in questo senso vediamo che appunto mentre il capitalismo occidentale è in crisi, ci sono paesi asiatici che invece si sviluppano e paesi dell'Africa subsahariana che richiedono invece maggiore autodeterminazione. E vediamo che appunto in queste crepe della crisi ci sono sempre più popolazioni che pretendono di riprendere in mano la propria storia. E diciamo che in questa lettura vediamo anche l'attacco del 7 ottobre, in cui la resistenza palestinese, con un atto di forza e grande coraggio, ha deciso di riniziare a incidere sul proprio futuro e, diciamo, di dare fine a quella che era la sua quotidianità di colonialismo. In questo senso, infatti, nelle prime parti del dossier ci preme dare delle basi che siano appunto rimettere in fila la storia appunto dello Stato di Israele, quindi una storia coloniale di appropriazione di terre e numerosi già attacchi precedenti nell'ottica di acquisire sempre maggiori terre. E vediamo poi anche come Israele non abbia un ruolo casuale, anche i legami che il nostro Stato, ma così come gli altri Stati occidentali hanno con questo, siano funzionali poi a controllare un'area medio orientale ricca di petrolio e anche ricca di paesi che non sono alleati dei nostri paesi occidentali. Quindi vediamo come Israele si configura di fatto come un avamposto per il controllo di questi territori. In questo senso, infatti, il nostro Stato in questi anni partecipa già a numerose missioni militari e anche i comandi, diciamo, le varie basi NATO che abbiamo già sul territorio hanno avuto un ruolo attivo sia per quanto riguarda quello che sta succedendo in Palestina, ma anche con quanto sta succedendo in Ucraina. Quindi, in questo senso, appunto, ci premeva ribadire un attimo il contesto storico in cui nasce questa questione, che molto spesso viene dimenticato. Ci premeva anche ribadire come la lotta della resistenza sia legittima e quanto non stia a noi valutare come un popolo che si vive uno stato coloniale quotidianamente debba liberarsi e quindi se questo decide che sia la violenza il mezzo da utilizzare, non starà a noi dire che questo mezzo è sbagliato e creare divisioni all'interno di qualcuno che sta appunto provando a determinare quello che sarà il suo futuro, così come penso che nessuno di noi andrebbe a giudicare ciò che hanno fatto i partigiani, piuttosto che altre esperienze di liberazione di altri paesi che sono avvenuti precedentemente a questa. In questo senso, un'altra questione che in università spesso viene confusa e su cui adesso si marcia anche molto, perché ovviamente avendo il nostro Stato una serie di legami, anche le posizioni che lui terrà saranno posizioni funzionali a mantenere quei legami. Si fa spesso confusione tra antisemitismo e antisionismo e quindi ci è sembrato necessario rifare anche una puntualizzazione su cosa sia il sionismo, quindi la sua funzione politica e la funzione politica appunto di appropriazione di una terra che appunto, usando la storia, diciamo un po' inventata, di avere delle radici passate in un certo territorio, come se questo basti per poter pretendere che quel territorio sia a propria disposizione. Oltre a questo, Pensiamo anche che tutto questo sia fondamentale all'interno dell'università perché, appunto, come diceva prima Mazzeo, questa università ad oggi ha un legame diretto sia con le aziende belliche ma anche con la legittimazione più ideologica di ciò che avviene. Quindi, appunto, lascerei la parola al mio compagno che approfondirà meglio questo punto. Grazie, ciao a tutti e tutte. E appunto, come diceva prima Marco, nell'ultimo capitolo del dossier abbiamo approfondito quelli che sono i legami tra in particolare l'Università di Firenze e l'Università israeliana, facendo il focus appunto su effettivamente cosa sono le università israeliane. E poi abbiamo cercato di mettere in fila quelle che sono appunto le nostre posizioni al riguardo. In particolare pensiamo sia fondamentale, appunto, come già detto dalla compagna in precedenza, come ha detto Antonio Mazzeo, inquadrare l'università in quanto produttrice di egemonia della classe dominante in una fase storica, appunto, quindi con l'individuazione precisa della fase storica in cui viviamo, dove appunto il capitalismo usa sempre di più la tendenza alla guerra come strumento di ripartizione e appropriazione di risorse e mercati. Quello che sta avvenendo in Ucraina oggi è molto esplicito, appunto, con la ripartizione di quelle che sono le risorse e i mercati. E da questo punto di vista l'università è un tassello fondamentale su due piani differenti che sono tra di loro in collegamento, in stretta connessione, ovvero quindi la legittimazione dal punto di vista della legittimazione e da un punto di vista della produzione materiale. Perché appunto non esisterebbero da questo punto di vista avanzamenti dal punto di vista tecnologico se non vi fosse la ricerca scientifica delle università al servizio delle aziende belliche che poi magari ci torneremo più avanti, ma anche qui è un passaggio fondamentale, ovvero individuare chi effettivamente trae profitto dalla guerra imperialista. E poi inoltre gli accordi con le aziende israeliane, poi magari appunto parleremo dopo effettivamente nello specifico. Dal punto di vista appunto della legittimazione è anche questo un passaggio fondamentale, nel senso che la ricerca all'interno dell'università e quindi la presenza di aziende belliche come la Leonardo oppure appunto come le università israeliane all'interno dell'università sono il primo passaggio di una legittimazione culturale, sociale ed economica all'interno della nostra società. E appunto in questo contesto appunto, come vediamo, la difesa di Israele è oggi effettivamente centrale per il nostro paese e per l'Unione Europea in generale, come appunto forma di controllo sulle risorse che si vanno a creare e di garanzia di un alleato strategico all'interno di quell'area. Ed effettivamente appunto le università israeliane hanno sempre contribuito e sono in una stretta concatenazione con quello che sono la produzione bellica all'interno del loro paese, per esempio per renderci un po' conto di quello effettivamente è la realtà, la Tel Aviv University, che è finanziata da l'ultimo bando dell'Unione Europea con il finanziamento di 117 milioni, vede al suo interno figure illustri della rappresentazione del sionismo all'interno di Israele, quali l'ex capo di Stato Maggiore dell'IDF oppure Shahrit Beruch, che nel 2008 approvò i piani contro l'invasione di Gaza e che vedono al loro interno appunto una stretta collaborazione tra la ricerca e l'università e effettivamente il massacro che Israele sta portando avanti da 75 anni. Quali percorsi, come corsi gratuiti agli studenti che hanno combattuto a Gaza, quali premio, oppure appunto ricerche strategiche da poi applicare in campo militare. Un altro esempio è quello della Bar-Ilan University, che per esempio come programma di studio propone appunto programmi di studio riservati agli ufficiali delle forze armate israeliane con le cosiddette lauree brevi, quindi con la riduzione proprio del percorso universitario a favore appunto delle forze armate israeliane, oppure appunto ha un particolare favoreggiamento per gli studenti sempre che hanno partecipato all'invasione di Gaza negli anni. E, appunto quindi secondo noi è fondamentale richiedere una cessazione degli accordi che al momento l'Università di Firenze ha con le università israeliane e con le aziende belliche nella loro totalità, perché appunto poi magari anche qui approfondiremo meglio in seguito, negli ultimi anni si è visto un progressivo utilizzo di quello che è definito come dual use, che sostanzialmente è appunto sono questi accordi, programmi di ricerca che si nascondono dietro la loro natura civile, ma che poi effettivamente si applicano nel campo militare. E, appunto quindi la nostra posizione è quella di la totale rescissione degli accordi con le università israeliane e con le aziende belliche. Ancora grazie. Ancora una domanda sull'università prima di tornare alle scuole superiori, solo per un approfondimento, insomma. Sulla scia di quanto si sta dicendo, di quanto anche l'ultimo intervento ha detto, di queste pubblicazioni che abbiamo qua davanti, delle precedenti di Mazzeo che non abbiamo qua, mi sembra che si possa provare a formulare così. Ci sono due ordini di rapporto che leguano l'apparato militare, industriale e finanziario con le università italiane. Sono rapporti diretti e indiretti. I rapporti indiretti sono sostanzialmente quelli che si stavano dicendo adesso, il dual use, in sostanza progetti sviluppati in ambito civile che poi trovano un'applicazione militare. E fate nella pubblicazione l'esempio dei droni che devono guardare le zone boschive per individuare gli alberi malati che finiscono per essere riconvertiti per trovare la temperatura corporea di una persona da ammazzare, eccetera. Ce ne sono mille purtroppo di esempi come questo. Questi sono i rapporti indiretti, ma poi vi vorrei fare una domanda invece su quelli diretti, appunto, che sono un po' di ogni tipo. In giro per l'Italia vengono creati percorsi, piani di studio. Io ho trovato che ce ne sono a Torino, a Bari, a Roma, a Genova, a Napoli, credo a Firenze no, ma non sono sicuro. E però fra i rapporti diretti ci sono anche quelli che vanno oltre al campo appunto della docenza, e si parla delle presenze dirette delle fondazioni o degli enti militari o delle industrie all'interno dell'università per poter approvvigionare direttamente dati, fonti delle ricerche, e quindi voi parlate in questo senso della fondazione Medor voluta da Leonardo Finmeccanica, e anche degli ambiguissimi rapporti, sempre per parlare dei rapporti diretti, che tiene la rettrice dell'Università di Firenze con questa stessa fondazione. Vi chiederei quindi di fare un commento su questo e poi andiamo alle scuole superiori di nuovo. Sì, appunto, è un po' il discorso della legittimazione che effettivamente l'università, che il ruolo dell'università ha appunto di legittimazione della guerra che si è sviluppata negli ultimi anni, e non a caso appunto vi è una crescita esponenziale di quella che è la presenza di vertici delle aziende belliche all'interno dell'università. Non a caso appunto la rettrice dell'Università di Firenze è all'interno del comitato scientifico della Fondazione Leonardo Medor, che diciamo si pone quale fondazione e associazione per lo sviluppo di mediazione culturale tra l'Italia e l'area del Mediterraneo, ma che poi sostanzialmente appunto fa capo all'azienda Leonardo, che è produttrice di armi e che appunto è una delle aziende che ha tratto più profitto in questi ultimi anni. In particolare negli ultimi 6 anni ha visto diciamo un aumento di quasi 5 miliardi appunto del suo valore, appunto proprio rispetto appunto alla situazione in cui ci troviamo. Quindi appunto si torna sempre effettivamente alla questione centrale, quindi che l'asservimento dell'università e la funzione dell'università all'interno del sistema e quindi di egemonia della classe dominante nel contesto appunto quindi di crisi del capitalismo che usa la guerra come strumento di riappropriazione dei mercati e quindi appunto il ruolo centrale che le aziende belliche ricoprono in questo senso. Sì, magari un'altra cosa che mi viene da citare anche rispetto a accordi che a guardarli apparentemente potrebbero sembrare anche innocui, ma oltre al discorso che facevamo, cioè che ogni accordo di fatto poi va a legittimare lo Stato israeliano, essendo con lo stesso e appunto proprio per la connivenza che sottolineavamo prima tra l'apparato militare israeliano e le sue stesse università, vediamo magari accordi di ingegneria civile, però poi uno si chiede quando l'ingegneria viene utilizzata per colonizzare territori di altri quanto ci sarà di civile, piuttosto che accordi sulla mediazione culturale, e anche lì ci viene da chiederci ma cosa ci sarà da mediare con uno Stato che porta avanti una colonizzazione dell'altro e una repressione totale di un'altra popolazione. Quindi in questo senso appunto la nostra richiesta verso la rescissione di ogni forma di accordo è proprio per prendere una posizione forte contro lo Stato israeliano e cosa questo sta portando avanti. Quindi appunto anche accordi che magari possono sembrare più distaccati dall'assetto bellico, distaccati dal genocidio che sta avvenendo adesso, poi se uno va a diciamo rompere il velo vede che dietro vanno sempre in quella direzione. Quindi questo diciamo per dare un elemento in più che anche se ci sono alcune cose che a primo appiglio tante volte vengono rivendicate nell'interesse di una ricerca libera, quando si va a vedere poi cosa comportano davvero c'è poco da parlare di libertà della ricerca. Grazie. Mr. Apollo, up the tree with his bare hands. I have seen Mr. Apollo's bodybuilding plan. He's the strongest man the world has ever seen. If you take his courses, he'll make you big and rough. And you can beat up bullies till they cry, oh no, oh crikey, let go, you rotter. Don't punish me. When you're tough, you're very fit, your voice is gruff, it sounds like grit. You are so strong and proud of it, thanks to Mr. Apollo. Everybody knows he's the greatest benefactor of mankind. Follow Mr. Apollo. Everybody knows that a healthy body makes a healthy mind. You know, he's the strongest. in their faces. Kick! When the tough, you're very fit, your voice is gruff, it sounds like grit, you are so strong and proud of it, thanks to Mr. Apollo. Give me 10 years of your life, and I'll trade in that puny flab for living muscle, the physique you desire. Strong, huge husky shoulders to hold your shirt. 5 years ago, I was a 4-stone apology. Today, I am 2 separate gorillas. No tiresome exercises, no tricks, no unpleasant bending. Wrestle poodles and win. Play beach ball, shave your legs, knock over walls, tease people, brush them aside as though they were men. Allora, per completare il quadro ci spostiamo su quello che succede prima dell'università. Ho detto prima scuole superiori, ma appunto, come diceva nell'introduzione Antonio, va molto prima l'argomento che stiamo trattando. Allora, lo accennavi un po', c'è scritto nel libro: il processo di militarizzazione in corso nelle scuole di ogni ordine e grado ha conosciuto una fortissima accelerazione negli ultimi 15 anni, ma già prima esistevano delle intese formali fra Ministero della Difesa e dell'istruzione. No? Però negli ultimi 15 anni abbiamo visto una fortissima accelerazione e anche direi una formalizzazione decisa di tutto questo con percorsi, piani, eccetera, protocolli d'intesa e così via. Nel libro fai una breve storia di questa... di questi fitti 15 anni e quindi insomma io ti arrivando fino alle ultime settimane, proprio all'ultimo governo e a quello che è successo negli ultimi giorni, ti vorrei chiedere quindi di dirci nel quadro che stiamo tracciando come si colloca il mondo dell'istruzione prima dell'università e in particolare che ruolo ha l'alternanza scuola-lavoro che ora si chiama PCTO, chiedendoti di fare possibilmente magari degli esempi toscani, visto che nel libro tu fai una rassegna di tutte le regioni e fai vedere come tutto questo si svolge dappertutto, purtroppo ovviamente non sfugge anche la Toscana. Beh, allora partirei intanto dalla Toscana, anche perché c'è un luogo comune che probabilmente, tranne ovviamente le aree che di movimento si pongono la questione dei processi di militarizzazione del territorio, è poco nota, è poco conosciuta e sottovalutata. Cioè purtroppo negli ultimi 15 anni la Toscana ha avuto un'accelerazione in termini di processi di militarizzazione del territorio che probabilmente tante altre regioni militarizzate non hanno avuto. Cioè oggi la Toscana si affaccia nel panorama italiano alla stregua come la Sicilia, come la Sardegna, come purtroppo la Puglia e come sono alcune aree del Veneto o dell'asse Vicenza-Aviano, per cui anche in Friuli, proprio perché la Toscana ha avuto un'escalation nella presenza militare a Camp Derby, storicamente una base centrale che tra l'altro in questo momento ha un ruolo determinante nella logistica in funzione degli armamenti statunitensi a favore di Israele, ma penso all'ampliamento di Pisa, il ruolo della 46ª Brigata aviotrasportata che è diventata la brigata d'eccellenza dell'aeronautica militare italiana proprio nella proiezione avanzata nei processi militari, proprio nella proiezione delle forze armate ormai a 360 gradi. Ovviamente c'è la vicenda che riguarda la nuova grande megastruttura per il Tuscania dell'Arma dei Carabinieri, Carabinieri, che forse non sarà a Coltano, ma sarà oltre, riguarda la costruenda, il costruendo centro nato per tutto il sud Italia, per il fronte sud della NATO a Firenze, riguarda la base militare di Grosseto, fondamentale. In questo momento i cacciabombardieri di Grosseto sono schierati a Malbok, nella Polonia nordorientale, a meno di 100 km di distanza dall'enclave russa di Kaliningrad, in una costante operazione di escalation tra la NATO e la Russia. Per non dimenticare il ruolo di Livorno, il porto di Livorno, e soprattutto non dimenticare anche quella che storicamente ha avuto una funzione fondamentale, mi riferisco alla Brigata Folgore, brigata d'eccellenza delle Forze Armate, che guarda caso a fianco della Brigata Tuscania, dell'Arma dei Carabinieri, dovrebbe essere narrata in un altro modo a scuola, invece diventa un modello per cui le scuole dall'infanzia al superiore costantemente sgomitano per andare in caserma direttamente tra Tuscania e la Folgore, o ospitare all'interno delle scuole la Folgore e il Tuscania. Ecco, la scuola, una scuola seria, avrebbe il dovere di raccontare, per esempio, alle proprie alunne e agli alunni che ruolo hanno avuto questi reparti, senza andare alla Seconda Guerra Mondiale, senza pensare alle guerre coloniali, ma quello che ha fatto recentemente. Dovremmo ricordare, prima di cedere 100 ettari di territorio di un parco al Tuscania, o prima di far scimmiottare le nostre bambine e bambini con le armi all'interno della Brigata Folgore, che per esempio questi due reparti hanno perpetuato torture e stupri sulla popolazione somala nel biennio 92-93 e hanno compiuto atti criminali, le fotografie, mettere in posa le donne stuprate, mettere in posa gli attivisti somali torturati nudi, e l'hanno fatto prima, 10 anni prima che lo facessero gli americani a Abu Ghraib. Magari noi ricordiamo Abu Ghraib, ma questo paese ha completamente cancellato la memoria di questi reparti, reparti che, ripeto, sono di eccellenza e che hanno un ruolo educativo enorme in questa regione, proprio perché sono diventati un modello. E consentitemi, proprio perché Vannacci è diventato una macchietta, quello che dice Vannacci non è perché Vannacci è fuori di testa o perché vuole fare l'europarlamentare con la Lega. Quello che penso dica Vannacci è esattamente quello che è patrimonio comune non soltanto della Folgore, di cui lui è un membro, ma di buona parte dello Stato Maggiore delle Forze Armate. Questo andrebbe ricordato, perché quel machismo, quel razzismo, quel sessismo, quel revisionismo storico, quel parafascismo, credo che sia un tessuto culturale, un brodo di cultura su cui le Forze Armate si sono fondate indipendentemente, in continuità esattamente alla Seconda Guerra Mondiale, esattamente al ventennio fascista. Questo dovremmo ricordarcelo, perché evidentemente aprire le nostre scuole alla presenza costante, cioè ormai nel libro racconto è impensabile, ormai non c'è una sola attività educativa che non venga delegata, offerta alle Forze Armate, e non soltanto quelle italiane. In Sicilia l'educazione alimentare, cioè quanto è fondamentale l'alimentazione mediterranea, è diventata una delle materie che viene offerta ai Marines statunitensi di rientro dalle loro operazioni di morte e di guerra in tutti gli scacchieri, e vanno nelle scuole siciliane a insegnare quanto è importante la buona alimentazione mediterranea, cioè fatto da un paese che sappiamo avere gli indici del 60% di obesità giovanile. Ma penso a quello che riguarda la storia, la cittadinanza, l'educazione fisica e motoria, ne parlavamo ieri. Purtroppo, soprattutto in questa regione, e non è un caso, perché poi le militarizzazioni del territorio ulteriormente accelerano le militarizzazioni delle coscienze, in questa regione ormai c'è un'occupazione di buona parte delle palestre pubbliche, delle palestre delle scuole, per fare questa maledetta ginnastica dinamica militare italiana. Non è il momento questo, ma vi consiglio di entrare sul sito per vedere i filmati e capire e comprendere qual è la finalità pedagogica di una ginnastica che riproduce la violenza, la sopraffazione. Ci sono attività che ricordano esattamente quello che veniva fatto a palla di lardo nel film Full Metal Jacket, quel tipo di violenza che poi non può che portare a situazioni estreme come l'omicidio suicida di quel film. Ecco, questo avviene tranquillamente. Tra l'altro invito anche a leggere, nel libro riporto la canzone di questa ginnastica dinamico-militare, che è una canzone ultranazionalista, una canzone di discriminazione, come sono tante delle canzoni che vengono fatte apprendere alle nostre studentesse e gli studenti quando si incontrano con le forze armate. Nel libro racconto la canzone che è stata fatta, che è stata insegnata ai bambini di una scuola elementare di Augusta in provincia di Siracusa prima di andare a fare una visita all'interno della grande base navale, che è una base NATO della Marina Militare, che controlla le operazioni di guerra nel Mediterraneo e controlla anche le operazioni di affondamento o di cinica osservazione delle sorelle e dei fratelli migranti che vengono lasciati morire nel Mediterraneo. È la canzone dei sommergibilisti, una canzone che è di inno alla morte. C'è anche il menefrego tipico di chi affronta la morte in modo fascista, una canzone di disprezzo dell'avversario, il nemico che deve essere annientato, una canzone fatta cantare ai bambini, con l'aggravante che questa è una canzone che è stata scritta da un compositore mio corregionale, tale Ruccione, che immagino non conosciate assolutamente nessuno, però se vi cantassi Faccetta Nera, penso che purtroppo la conosciamo tutte, conosciamo verso per verso quella canzone, sappiamo quanto quella canzone abbia in pochi versi sintetizzi l'ideologia macista, l'ideologia razzista, l'ideologia, la peggiore ideologia sessista, proprio di inno allo stupro della ragazza nera che la ritieni bottino di guerra. Pertanto penso che, oltre ad essere una canzone fascista, ecco, quello è l'autore della canzone dell'inno dei sommergibilisti, che continua a essere l'inno dei sommergibilisti italiano, pertanto indenne dalla Resistenza, indenne dalla Repubblica Democratica, di cui ieri era l'anniversario, e che, questo lo dico perché ideologicamente sono queste le forze armate, e questi modelli culturali poi vengono proposti direttamente alle funzioni educative. Rispetto al PCTO, ovviamente una regione che dicevo poco fa, una regione che ormai ha assunto un ruolo geostrategico fondamentale in quella che è la proiezione sia delle forze armate straniere, la brigata di Pisa ormai da anni è diventato l'interlocutore fondamentale della 173esima brigata aviotrasportata che ha sede a Vicenza, quella che è costata la trasformazione, la militarizzazione forsennata di quella che era una città patrimonio dell'umanità, che è stata trasformata nella principale base delle truppe di élite delle forze armate statunitensi. Ecco, le operazioni di lancio, di aviolancio, le operazioni di trasferimento di questa brigata statunitense vengono fatte a bordo della brigata di Pisa, per cui per capire il ruolo strategico. Ovviamente non poteva non avere un effetto non soltanto nella moltiplicazione della presenza delle forze armate all'interno delle scuole toscane, ma anche di una sempre maggiore presenza del terzo, quarto e quinto anno dei superiori toscani all'interno dei reparti di élite. Sono le attività che vengono fatte, per esempio, ci sono l'Istituto Geografico di Firenze ha un ruolo fondamentale, tra l'altro l'Istituto Geografico che coordina tutte le attività di orientamento delle forze armate nelle scuole di ogni ordine e grado della Toscana. Bene, gli studenti vengono mandati a fare cartografia, a lavorare. Gli insegnanti toscani fanno la loro formazione in geografia all'interno dell'Istituto Geografico Militare. E ovviamente avete fatto proprio in questa sede l'incontro con Lancione. Lancione vi ha spiegato esattamente quanto la cartografia diventa fondamentale per rinarrare la geografia e per poter giustificare anche le operazioni di guerra e le operazioni aggressive. Nel caso del Politecnico di Torino con Frontex contro i migranti, ovviamente nel coso militare rinarri quello che può essere, crei anche, come posso, enfatizzi anche il pericolo del nemico. Se trasformi e utilizzi le carte geografiche in cui quella tipica l'India è quasi grande quanto l'Italia, perché nelle carte geografiche che dell'emisfero, quelle che conosciamo noi, l'India ha una superficie identica a quella dell'Italia, magari dei mari italiani, è chiaro che tu modifichi completamente anche nell'immaginario, e noi ci mandiamo tranquillamente e facciamo fare il PCTO. Ma un caso che mi ha colpito particolarmente a Ulla, Massa Carrara, a Ulla c'è il più grande centro di progettazione di sistemi d'arma, un grande deposito anche per le armi NBC, cioè nucleari, batteriologiche e chimiche. E noi tranquillamente ci mandiamo i nostri studenti a fare l'alternanza scuola-lavoro all'interno di una base che, oltre ad avere ovviamente rilevanza strategica, ma anche di una pericolosità enorme. Stiamo parlando di mine navali, stiamo parlando di siluri, stiamo parlando di sistemi missilistici. Ecco, questo avviene ovviamente, oppure può anche accadere che vai a far fare l'alternanza scuola-lavoro agli istituti alberghieri all'interno delle caserme, in cui vai a fare la preparazione del cibo, o vai a servire, fai servire gratuitamente nel centro dei sottufficiali, alla mensa degli ufficiali, eccetera. Ma ripeto, è una moltiplicazione di progetti. Stesso discorso anche all'interno della base, ci sono stati i PCTO garantiti anche all'interno della base di Grosseto, quella base che è immancabile in tutte le operazioni di guerra. E da quando andiamo a fare, dalla prima guerra del Golfo, da quando abbiamo trasferito all'estero le operazioni di guerra, e tra l'altro fu abbattuto un aereo dello stormo di Grosseto durante la prima guerra del Golfo, l'alternanza scuola-lavoro si fa all'interno della base militare di Grosseto. E quello che mi preoccupa, e consentitemi, non è soltanto l'alternanza, è quello che sta succedendo nelle scuole. Io nel libro racconto che è stato avviato un liceo sperimentale digitale, che è diventato sperimentale e che potrebbe già dal prossimo anno scolastico essere riprodotto uno per ogni regione d'Italia. Questo liceo digitale è un liceo che ovviamente privilegia il modello STEM, cioè le scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, ma è un liceo che ha una caratteristica che apre una nuova frontiera nella scuola italiana, cioè la programmazione, i programmi, la didattica viene coordinata dal Ministero dell'Istruzione, dagli insegnanti e da Leonardo S.P.A. e dalla Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine, che è la fondazione sorella di Leonardo Medor. Guarda caso, due fondazioni che hanno due presidenti cugini. Uno è Marco Minniti, ex ministro dell'Interno, PD, l'altro è Luciano Violante, ex presidente della Camera PD, quello che ha sdoganato i buoni fratelli di Salò, i buoni compagni di merende dei partigiani, per cui sono tutti uguali, facciamo un grande perdono, eccetera. Questo liceo digitale vede personale, insegnanti pagati dal Ministero, insegnanti pagati di Leonardo, che ovviamente fanno le attività integrative. Quali sono le attività integrative? Sono le attività esattamente dei piani industriali di Leonardo. Settore aerospaziale, digitalizzazione, automatizzazione, droni, intelligenza artificiale e cyber security. Cioè fanno questo. Ma attenzione, per capire qual è la nuova frontiera della scuola, non è soltanto questo. Ma dal primo anno fanno anche filosofia. Cioè, noi quante volte abbiamo denunciato che c'è una tentativo di uniformare, rompendo, cancellando le materie, quelle di tipo umanistico, che sono fondamentali perché ovviamente ti permettono di analizzare la complessità, e invece si va verso le logiche binarie, che sono le logiche di guerra, buono cattivo, aggressore aggressito, invasore e invaso. Qui invece si va contro tendenza, cioè la filosofia che viene cancellata dalla scuola, che, di cui si riduce sempre più il monte orario, invece qui viene fatta studiare dal primo anno. Ovviamente con una finalità che è fondamentale, che è quello che sta vedendo anche all'interno di tante facoltà universitarie, di tanti dipartimenti, in cui la filosofia che abbiamo conosciuto noi, che è la filosofia della complessità, la filosofia delle relazioni tra l'uomo e l'ambiente, tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e la storia, tra l'uomo e la donna, viene cancellata, perché l'unica filosofia che deve essere studiata è quella delle relazioni tra l'uomo e la macchina. Ovviamente che non è una relazione di equilibrio, che già sarebbe gravissimo, perché considerare che l'uomo debba avere un rapporto egualitario con la macchina già mi sembra una bestemmia in sé rispetto alla storia dell'umanità. No, in cui ovviamente è una filosofia che legittima la tecnologia con una superiorità, che legittima che deleghiamo alle macchine il diritto di vita e di morte, non soltanto del singolo, ma dell'umanità intera. Esattamente questo percorso, che questo dovrebbe, come potrei dire, far venire veramente i capelli bianchi a chiunque, perché siamo oltre all'immancabile, cioè qui non c'è soltanto un processo in cui nelle guerre stiamo delegando sempre di più alle intelligenze artificiali, vedi quello che sta accadendo con le applicazioni che scelgono chi deve essere ucciso e quando deve essere ucciso, lasciato agli algoritmi. No, qui siamo veramente alla concezione stessa che da oggi in poi le macchine possano decidere sul futuro stesso della sopravvivenza dell'umanità, e utilizzi i licei per far passare, anche dal punto di vista scientifico, anche dal punto di vista del consenso, della formazione di nuove generazioni, questo principio della superiorità delle macchine, della superiorità della scienza, della neutralità della scienza, che ovviamente è funzionale soltanto al profitti di Leonardo. Grazie. We'll be right back. testa fa male. Questo è A. Sì. Questo è A. Questo è A. Dio l'assista, amico. Un'ultima domanda, la rivolgo a entrambi, poi chi volesse intervenire, dire, domandare qualcosa, il microfono è qua, faccio giusto un'ultima domanda. Allora, intanto invito a leggere quello che stiamo presentando, sono due ottime pubblicazioni, sono davvero importanti. Fra gli esempi che facevi sono tutti citati nel libro, il 100° anniversario dell'aeronautica. Hai mancato per esempio ora nella rassegna la celebrazione della prima guerra mondiale come grande guerra patriottica, ma ci sono esempi come questi che ha citato, si sprecano in effetti purtroppo. Oppure mi ha colpito molto, arrivi fino a questo, ce l'abbiamo tutti in mente, l'immagine della Giorgia Meloni dentro la carlinga del caccia F-35 accanto a Crosetto, mentre la scuola, che fra l'altro io non lo sapevo, l'hai scritto nel libro, è intitolata I fratelli Cervi, dei bambini delle elementari con le bandierine italiane inneggiano Giorgia, cioè ci sono di questi aspetti ideologici pervasivi totali fin dalle scuole elementari, appunto. Quindi insomma, un invito a leggere semplicemente tutto questo. Io vorrei fare questa ultima domanda, che è un po' una mia riflessione, se volete rispondere, se non volete, per carità. Vi invito a un commento su questo. Ecco, mi sembra che tutto quello che stiamo dicendo, allora, sicuramente tutto quello che stiamo dicendo, come scrivete nelle vostre pubblicazioni, sta dentro all'alveo ideologico del documento programmatico triennale 2023 dello Stato Maggiore della Difesa, che dice è un documento programmatico del 2020, che dice: il processo di ammodernamento delle forze armate richiede una base industriale nazionale solida e capace di sviluppare prodotti all'avanguardia. È pertanto necessario dare ulteriore concretezza alla cooperazione fra difesa, università e industria di settore. E a me qui mi sembra che si colga chiaramente come di fondo da parte delle aziende, delle industrie, ci sia la volontà di approvvigionarsi gratis di tutta quella conoscenza che viene prodotta nelle scuole e più ancora nelle università. Cioè di tutta quella conoscenza, di tutta quella ricchezza sociale che massimamente viene prodotta da studenti e ricercatori, le industrie, le aziende, con benestare, insomma, la concezione della politica, di tutta questa conoscenza si appropriano gratuitamente e poi, trasformando quella conoscenza in merce o servizio, la rendono profitto. Questo mi sembra un meccanismo in atto, potrei citare qualche esempio, non vi annoio, ma insomma mi sembra che ci sia. E se questo avviene come avviene oggi, dentro a un clima in cui forse, come sembra a me, il capitalismo nella sua forma attuale, contingente, non trova ulteriori possibilità per la propria espansione, e così, cioè, mi sembra che attualmente, non riuscendo il capitalismo attuale ad espandersi a sufficienza, malgrado il tentativo di svolta green, eccetera, tenti la propria riconversione e la produzione militare, provando così ad avere uno sbocco verso la necessità appunto di crescita che si vede mancare. E se è così, se questo schema è giusto, cioè appropriazione diretta della ricchezza, trasformazione reagendo nel lavoro vivo in profitto e sempre più direzione di questo in ambito militare per necessità di trarre sufficiente profitto, dico, se tutto questo a livello schematico è giusto, allora mi sembra che si debba sancire la centralità e l'attualità del tema che stiamo affrontando stasera, perché riguarda proprio i nervi scoperti e le contraddizioni più esplicite del sistema nel quale viviamo, e anche, a me pare, consegna agli studenti, voglio dire agli studenti organizzati, un ruolo storico e una possibilità d'azione oggi decisiva e determinante. Questo era un po' il pensiero che ho fatto leggendo, se vi va di dire qualcosa su questo, ben volentieri, e poi chiunque volesse intervenire, grazie. Sì, personalmente concordo perfettamente, lo dicevo prima, è duplice, cioè è una scuola di obbedienza cieca, è una scuola di conformazione. Rispetto a questa questione, vabbè, intanto voglio dirlo sinceramente, io credo che quello che è accaduto quest'anno negli Stati Uniti, nell'Università Italiana, è comunque di rilevanza storica, perché di fronte al passi giorno dopo giorno di chi sta spingendo verso lo scoppio di una guerra mondiale, totale, nucleare, finalmente c'è un anticorpo. Questo anticorpo sono queste nuove generazioni che hanno preso di coscienza esattamente del ruolo determinante che ci hanno settori con il mondo accademico, con il mondo della ricerca, eccetera, in funzione della guerra. Questo è un fatto nuovo che penso, dico, non sarà questo che impedirà la velocità, impedirà il passaggio probabilmente a questa guerra che potrebbe scoppiare veramente da qui a qualche settimana. Noi siamo alla vigilia di tre momenti, le elezioni europee, che sicuramente rafforzeranno quei settori del capitale finanziario europeo che puntano alla militarizzazione, puntano alla guerra, puntano alla perpetuazione di questo modello di controllo capitalistico. Siamo alla vigilia del vertice della NATO a Washington, tra l'altro il fatto che venga fatto a Washington sarà importante perché Biden si gioca un ruolo fondamentale per le elezioni, dovrà dimostrare sicuramente agli statunitensi che gli Stati Uniti tornano a essere a capo della NATO e che pertanto saranno loro a determinare le scelte di questa, che sono scelte di guerra, perché questo annuncia la NATO costantemente, questo annuncia con l'escalation delle forniture di armi che devono colpire direttamente nel cuore della Russia. E terzo, dimenticavo, tra 1 e 2 siamo al vertice del G7 in Puglia. E guarda caso, un G7 che però si apre a Erdogan, che si apre a Zelensky, che si apre all'India, esattamente, che vuole perpetuare anche lì una ulteriore scelta di spinta a un'economia di guerra e di un ulteriore trasferimento di risorse finanziarie. Ecco, di fronte a questo, questi sono gli scenari, però di contro c'è questo scenario che sono, per cui perlomeno dobbiamo ringraziare comunque chi in queste settimane, in questi mesi, ha fatto le occupazioni delle università, ha fatto gli accampamenti, perché è un segnale politico enorme. Credo che un passo ulteriore vada fatto, concordo ovviamente con le richieste, sono richieste fondamentali e vanno sostenute, non soltanto vanno sostenute gli insegnanti, dagli studenti, vanno sostenute dagli insegnanti, ma vanno sostenute da qualsiasi attività antagonista, perché oggi nelle università, ce lo hanno spiegato i ragazzi, si sta giocando un ruolo fondamentale per perpetuare il modello di controllo neoliberista, ma anche il modello di guerra. Io credo che dobbiamo anche fare uno sforzo per delegittimare la narrazione, lo dicevo poco fa alle compagne, di delegittimare la narrazione di cui le università si stanno facendo portavoce, esattamente riproducendo la narrazione mainstream della stampa. Senza la presenza del complesso militare e industriale, senza la presenza di Leonardo, non si può più fare ricerca scientifica delle università. Questo si dice. Come si aggiunge che senza, per esempio, Eni, Leonardo, eccetera, anzi, dobbiamo averle all'interno dell'università perché abbiamo il dovere di fornire a queste nuove generazioni la possibilità di avere un'occupazione dignitosa. Sono queste, ecco, per cui facciamo, le università e le scuole fanno orientamento, perché questa è una grande opportunità occupazionale. Le università perpetuano il mainstream dicendo: ah, ma il complesso militare e industriale è fondamentale nella produzione di occupazione, di ricchezza del paese, anche in termini, certo, non appartiene al nostro modello culturale, ma il prodotto interno lordo, usano il PIL come indicatore della ricchezza e ci dicono che grazie alle industrie militari il nostro paese continua ad arricchirsi e dunque a poter distribuire ricchezza. Ecco, che lo faccia un giornalista in quei talk show indegni e infami che ci fanno soprattutto da 2 anni a questa parte, lo posso anche capire, è in busta paga di quel capitale, giustamente, essendo in busta paga, ha anche il dovere di riprodurre questa narrazione. Ma che lo faccia l'università e che lo faccia con le nuove generazioni, con gli studenti, io lo trovo veramente un crimine. Uno, ancora una volta, nelle università si fa ricerca scientifica perché ci sono i fondi pubblici, ci sono i fondi dell'Unione Europea, ci sono i fondi dello Stato, ci sono i fondi delle regioni e in alcune università anche i fondi degli enti locali. Non lo si fa perché arriva Leonardo. Leonardo qualche volta mette una borsa di studio per un dottorato di ricerca, questo è il massimo che viene fatto. Al contrario, Leonardo entra in tutte le università italiane, utilizza i laboratori, utilizza i docenti universitari, utilizza i ricercatori, utilizza i dottori e i dottorandi per fare know-how. Allora, qui è un rapporto inverso, è il denaro pubblico ancora una volta che serve a rafforzare gli interessi e i profitti del capitale privato e lo fa all'interno di una struttura pubblica, lo fa utilizzando docenti che vengono pagati da noi contribuenti con denaro pubblico e lo fa utilizzando e sfruttando studenti sia con fondi pubblici ma che pagano 2.500 euro di tasse universitarie. Ecco, questa narrazione va assolutamente smentita e va fatta questa contronarrazione. Prodotto interno lordo. Cioè, le università si sono mai messe ad analizzare i bilanci, ad analizzare esattamente qual è la contribuzione reale in termini di... Lo fanno i ricercatori indipendenti che vengono espulsi dalle università pubbliche. Ebbene, il conto va tra lo 0,15% e l'1%. Questo è l'apporto, non di Leonardo, di tutte le industrie belliche italiane, Fincantieri, La Beretta, Avio, eccetera. Cioè, che è una cosa infinitesimale. Soltanto il settore turistico contribuisce al 5% nella ricchezza. Ma io non penso che chi lavora nel settore turistico abbia diritto di cittadinanza e di decidere quali sono le sorti del paese. Invece chi contribuisce con lo 0,5% del capitale poi decide tutto, decide le scelte di politica economica, le scelte di politica internazionale, le scelte di politica militare, le scelte dei tagli drastici al welfare, alle università, alla scuola, alla sanità. Cioè, questo è veramente... Allora, le università dovrebbero fare questa contranarrazione, che è un attacco ai principi fondamentali. E poi, consentitemi, e chiudo, rispetto all'occupazione. Ma le università che sposano e che si svendono, io dicevo poco fa, leggetelo, l'unico documento pubblico esistente per capire quali sono i rapporti tra università italiane e Leonardo, l'ha pubblicato la Sapienza di Roma, accordo firmato appena 2 anni fa, leggetelo che accordo è. E l'accordo, come potrei dire, ma neanche nella Spagna coloniale, quando andava a fare le colonie in America Latina, il rapporto di saccheggio era quello. Però noi ancora siamo giustamente indignati di quella modalità coloniale, ma non siamo indignati dal fatto che la Sapienza regala tutto. Regala i propri laboratori a Leonardo, regala i ricercatori, eccetera. E quando c'è da fare profitti, I profitti vengono concessi al 100% a Leonardo, cioè si cede unilateralmente il controllo sui brevetti, anzi dice no Leonardo fammi sta cortesia, i brevetti registrateli tu e se sai fare profitto te li guadagni tu. Cioè io dico queste cose vanno denunciate e soprattutto va denunciato il fatto che Leonardo ha fatto profitti, ce lo ricordava la compagna, del 40, 50, 60% ad anno, ma i dipendenti sono rimasti piatti 30.000 5 anni fa, 30.000 4 anni fa, 30.000 3 anni fa, per cui i bilanci si moltiplicano, i dividendi, non chiaramente per l'azionista di maggioranza pubblico, ma per gli azionisti privati, diventano enormi, schizza in borsa, però poi 30.000 erano e 30.000 restano, con l'aggravante, e questo lo dovremmo ricordare a chi all'università dice ma noi dobbiamo offrire questa occasione di lavoro, che chi va a fare ricerca e viene sottratto dal pubblico e finisce Leonardo, sono ragazzi, formatisi nell'università pubblica, che vengono sfruttati come limoni, spremuti come limoni, un anno con contratto a tempo determinato, secondo anno magari con un contratto a tempo determinato, forse anche un terzo anno a contratto determinato, e che poi vengono mandati a calci nel culo fuori, perché intanto quei tre anni che quei ragazzi hanno perso all'interno di Leonardo sono stati fuori dal mercato della ricerca tecnologica scientifica che ha una velocità enorme. Pertanto esce lui, ma mi prendo lei che appena, si è appena laureata, si è appena formata all'università e che pertanto ha un know-how molto più utile di quello di Marco che ormai è vecchio. Ecco, queste cose le università le dovrebbero ricordare. Le università invece permettono che venga perpetuata questa menzogna sulla pelle delle nuove generazioni, facendogli apparire Leonardo come il paradiso terrestre, quando Leonardo non produce ricchezza, Leonardo non produce. Io invito a leggere gli studi del professore Lucarelli, economista dell'Università di Bergamo, che ci spiega anche che 1 milione di euro investito nell'industria militare produce meno della metà, meno di un terzo di quello che avrebbe prodotto se questo investimento fosse fatto nella scuola, nell'istruzione, dove non ci sarebbe lo sfruttato a tempo determinato 3 anni, ma ci sarebbero insegnanti a tempo indeterminato, pertanto con la garanzia finalmente di rompere il modello di precarietà che è diventato un modello tipico di assunzione anche all'interno del sistema scolastico. Allora queste cose ce le dovremmo dire e io penso che dobbiamo fare la controffensiva anche ideologica, perché non possiamo permettere che loro raccontino queste palle, ma anzi vanno messi in ginocchio e devono riconoscere che veramente stanno svendendo l'università pubblica, stanno svendendo l'istruzione pubblica. Pertanto qui non è la privatizzazione come l'abbiamo pensata, cioè l'università diventa azienda per fare profitti, no, l'università diventa un bancomat, diventa, come posso dire, un drone di trasporto di denaro pubblico direttamente per i profitti del privato. Ecco, questo sta succedendo e io penso che abbiamo il dovere, a partire dall'autunno, veramente di una controffensiva, di intanto di smentire e soprattutto per portare a casa quegli obiettivi centrali, cioè l'università deve rompere qualsiasi relazione col complesso militare industriale nazionale e lo deve rompere anche con quelle accademie. E guardate che non è soltanto Israele, io mi permetto di ricordare gli accordi che si sono moltiplicati con le università turche in questi anni. E qui non c'è nessuna giustificazione, qui non ci si può inventare che l'università israeliana è un'università di pace. E io, nelle università turche i rettori non vengono eletti democraticamente all'interno, i rettori vengono nominati direttamente dall'esecutivo, dal governo, sia da Erdogan, ossia da quel carnefice che sta massacrando le popolazioni curde utilizzando tra l'altro gli strumenti di morte, ricordiamolo, i nostri rettori, che sono stati prodotti anche da Leonardo. Something more I can barely think about the way she can be loved. Oh, bye. She's amazing. Io bizzeffe di suggestioni e millanta domande, ma mi tengo tutto volentieri per le prossime volte se qualcuno vuole dire o chiedere qualcosa. Io ringrazio Mazzeo, ringrazio i compagni e le compagne presenti. Una breve suggestione di quello che mi è accaduto a me. Io ho il bambino che sta qui alla Guicciardini, alle medie. Un giorno torna a casa e mi fa, dice, papà, oggi sono arrivati i carabinieri, va a fare che? Dice, sì, c'era una presentazione dell'arma. Dico, sì, ma cosa avete fatto, di cosa avete parlato? Dice, ci hanno fatto capire quanto era importante difendere la patria. Dico, sì, ma cosa va detto il carabiniere? Ci voleva arruolare. Dico, ma tu lo sai che significa arruolare? Dice, sì. Ma tu non hai detto niente, ho detto ma io disegnavo, non mi sono disinteressato della cosa. Ora io, ci abbiamo fatto una risata, insomma io ho fatto una risata un po' amara, però la cosa che mi domando però è qual è il ruolo dei docenti in questa cosa? Cioè che, perché non, un docente non ha detto ma scusate ma cosa state facendo, cosa state dicendo a mio figlio, cioè a questi bambini, no? Cioè, mi chiedo, ma possibile che i docenti italiani, cioè i docenti che pure si in qualche modo presentano come anche un baluardo verso certi valori, possano in qualche modo accettare passivamente un ingresso così massiccio e così invasivo e pervasivo in bambini che hanno 12 anni, 13 anni? Ecco, la mia domanda era relativa a questo. Grazie. Tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.